dobbiamo fare questa cresima al ristorante, ci pagano il pranzo, la cena, poi solo la cena forse. E la facciamo diversa dal solito, capito? Oh, io sono per dirlo, ammazza le cresime anche il sabato le fanno adesso. E però mi sono stato zitto e ho detto perché non se ci faccia queste figure che adesso le stanno facendo anche il sabato. C'è la storia che c'è San Gavrino e solitamente io tutti gli anni andavo alla camminata. E anche io ci sono andato l'anno scorso, Però no, non ci vado quest'anno, me la fottiglia. Loro la promessa l'hanno mantenuta e altrettanto io la mantengo. Capo, Giuseppe, l'anno scorso ci sono andato anch'io, Scusatemi. Vai, non cose ti fazzi un coso come in tiraganna, come ti cappero l'ollaie. Più che altro, io te lo sai cosa mi è successo una volta, andando a mangiare quel formaggio e quelle fette di pane, quel pane osilese, no? Sono stato tre giorni che non riuscivo a entrare in bagno, ma stretto, eh? Cappa, mamma mia, cazzo, che cosa fea che è? Cazzo, le voglia un coso, un trappano ci voleva. Che ne vada a mangiare da voi, ma... Già, mi ho mangiato talmente tanto, che la verità, lo nego, mi ho mangiato talmente tanto, guarda, ti posso dire ancora senza proprio esagerare, ma quasi mezza forma e in una posata me la ci mangiata. No, la buona. Tagliamo quelle fette in palo, spalmavo sopra, guarda, spalmavo anche... ma era così buono, era buono, un pelo che non aveva tutto il tempo senza mangiarmi, mangia la giubbata, mamma mia. Ma quello lì io non bevo, ma quello lì è buono, con un bel bicchiere di vino buono, fatto una spalmatina sopra il pane calzato, mangiando e una sensata di vino, ma è perfetto così. Però non bisogna abusarne, io non le mangio, ne ho visto due volte, passa, due volte di volta che lo tocco. E così ti lascia sapore buono, ma nello stesso tempo te ne vorresti mangiare altro, perché ti attira a mangiarlo, però lo lasci perdere, dai. Ma io già sono un po' per i formaggi. Buoni, soprattutto il formaggio sardo, sono un po' troppo chioppi, lo si attacca a mangiare. Il formaggio per me è una cosa che ci vorrebbe tutti i giorni, però ne faccio a meno, non ne compro neanche perché se lo compro guai. Ti ho capito prima perché c'era Antonio, c'era Marco che stava dicendomi roba. Ho detto che io sono un po' troppo ghiotto del formaggio, soprattutto il formaggio sardo, e mi piace un bel, delle volte non lo compro per non mangiarne proprio perché sennò qua si attaccano, io lo finisco. Lo so, anch'io sono uguale, una volta siamo andati con Natalino in Piazza Resina, c'erano due pastori che stavano prendendo il formaggio di loro proprietà, ho detto se me ne faceva assaggiare un pezzettino, ho detto dammene due forme le abbiamo preso io e due forme Natalino, ci sono venuti 10 euro a testa, una cosa del genere. Ma a casa non è durato quello di Bosini, non è che da non venire alle mie. Peggio, tu dovevi vedere in che condizioni era, era sempre cannati che all'aria, mamma mia cosa tutto ha combinato quello. Sta in pipa, non me lo posso immaginare. E poi una cavalla posta era periodo di marimi, tu dovevi vedere quando entrava in acqua era un ribollire dietro le chiappe di questo, talmente casa era caldo dietro, mamma mia. Io me lo immagino con la finestra aperta e con un culo in pipa da fuori, rubando. Lui aveva giurato che di quel formaggio non ne toccava più, Ma tu dovevi vedere in che condizioni era. Mamma mia cara. Ma perché quando si esagera tutte le cose così, no? Se uno si sa regolare, ne gusta un pezzo e basta, non è? Quello lì si usa di solito come antipasto. E basta, poi lo metti da parte. Infatti se io questo tipo non lo voglio far rimanere a casa quando passa con la moglie, no, tiro fuori una di quelle tirrine e la metto sul tavolo con il pane. Lo vedi come parte subito da qui? C'è un ubriaco di Fazio. Il giorno ne ha mangiato troppo. Infatti gliel'avevo detto. Guarda che tu ti stai facendo male con le tue mani. E dai, e mai, i bicchieri di vino, e 2, 3, 5, 6, 8, 10, è partito mezzo boccione insieme a quella storia lì, vai. E poi ne l'avevamo finita con le asparagi, infatti l'aveva fatto il fratello, tipo sott'olio, poi c'era, si sentiva anche un goccettino d'aceto, ti dico, veramente buoni, eh? Che buoni. Questa roba di chita, solo che esagerando, quando si esagera è così tutte le cose. E io sono molto ghiotto sia di formaggi, di tranne la gruviera che non mi piace, il grana che non è che lo mangio molto, ma tutti i formaggi sardi, anche quello dolce, quello morbido, tipo dolce sardo. Mangio. Sono molto troppo. E oltre i formaggi mi piacciono molto anche le salsicce affumicate. A me hanno regalato ieri un pezzo di, come si chiama, di qualcosa fatto con il lardo, quello fatto col pepe nero sopra. Sì, è lardo. C'è anche la pancetta, ma solitamente è lardo. Quello che fanno, che rimane rosastro. C'è anche tipo delle, sembra lardo, mezza pancetta, adesso non so che balla sia. E lo fa uno che ha, però lo fa per lui, non è roba che vende. Ma tu devi sentire che prelibatezza. Quella è pancetta, se c'è la striscia della carne è pancetta. E cappa. Adesso ci mettiamo d'accordo e ce lo facciamo fuori. Il lardo, Giuseppe, tutto bianco, non è asticciato di carne. Il lardo pancettato, Giuseppe. Vabbè, praticamente è pancetta molto grassa, non è lardo. È pancetta molto grassa quella lì, che c'è una strisciata di carne al centro, poi c'è grasso sopra e grasso sotto. Che è anche un po' rosastro, non è bianco bianco, sì, quello lì lo chiamano lardo pancettato, che è più lardo che pancetta, anche un filo di carne, boh. Vedi, e anche quello lì ti attira sempre a bere. Ma io non bevo lo stesso, Ecco, acqua. Io lo mangio, ma non lo bevo, stai tranquillo che quando le astemi la stemio, domani tiro un attesino a me lo mio. Se buono, forse ho tagliato un pane, forse non sarà gravizia. E quella è la morte sua, mi bombolino. No, non sarà gravizia. In un'altra lungo ho fatto scocciolare sul pane. Ah, immagina l'animale, chiaro. prima che ti dica. Se non gratti bene, già non è rimasto. Infatti la parte che ti devi tagliare e via che c'è nulla. E ma sabato dobbiamo festeggiare anche la macchina. Stasera sono passato. Dove? Là? E qualcosa l'ha già piazzato, la pasetta di su quella è perfetta, me l'ha fatta, guarda, sono rimasto contento. E l'autoradio piazzata, stava suonando che è una meraviglia. L'autoradio quale hai messo? Quella che avevo nell'appunto, quella chiara luce celeste. Ah, e il baracchino? Il barattino è tutto collegato. Tutto a posto, accende, però lui sapeva già che il microfono non lo deve toccare, perché senza antenna sa che la portante non bisogna toccarla. Ebbè, l'antenna non l'ha messa. No, l'antenna ce l'ho io qui a casa, mica gliel'ho data. Ah, solo l'antenna. Cavolo, e non sono matto a dargli l'antenna, no? Vabbè, ma tutti questi lavori che sto facendo sono extra. Cappa. E quindi tutto fatto con l'assicurazione, tutto qua? Tutto a posto, gli ho portato il tagliando, tutto il resto, e dice mi attacca tutto lui domani, perché adesso deve dare una bella pulita dentro ai vetri. E domani vedete i tappetini nuovi, e proprio gli ultimi ritocchini. Fatto questo, fai con calma, c'hai tutto domani, tutto domani. Non ti ho messo fretta proprio per quello, perché io la macchina l'avrei potuta ritirare anche dalla settimana scorsa, però rimango sempre del parere che meno fretta metti e meglio vengono i lavori, e ti dico che mi ha fatto un bel lavoro. Ecco, un po' meglio così, là. Le casse c'hanno della casa? Penso di sì, perché aveva tutti e quattro gli sportelli aperti e dietro si sentiva suonare. Però si sente benino, Sì, sì, c'ha 100 watt, mi pare. Come... non è che sia un grandissimo impianto, ma saranno in cartone di cose, ma si sente. Poi voglio vedere il diametro delle cavewood che ho qui a casa, se ci stanno, vedo un po'. Ma grandi sono? E grandi come? Di potenza o di diametro? No, dico di diametro. Non lo so già, erano nell'appunto davanti. E allora ci stanno benissimo lì. Perché quelle che avevo davanti nell'appunto ho visto toccare un mese. Non li metto. Cappa, ho messo quelli originali dell'appunto. Io non butto niente. Gli ho messo l'autoradio in più gli altoparlanti originali. Adesso venerdì vedo un pochino se mi danno tutto il giorno oppure solo venerdì pomeriggio. Faccio la prova. Ma io mi auguro che come stazionarie sia a posto, perché oltretutto l'antenna me l'ha piazzata più indietro e di dove doveva essere piazzata, non è vicino alla guarnizione del vetro, è molto più indietro. Che cosa? Non ho capito, Giuseppe, scusa, non ti stavo seguendo perché c'è Marco che è entrato a fare la seguita di una. Dimmi, Giuseppe. La basetta dell'antenna me l'ha piazzata molto più indietro della guarnizione del vetro. Basetta dell'antenna, stai dicendo? Sì, il pezzo che va attaccato alla macchina. Ma non è messa al centro? No, non è al centro, Gianni. L'hai messa avanti? Sì, avanti, ma non è avanti. Cioè, non l'hai messa né davanti né dietro, né al centro. L'hai messa, diciamo, tra la parte di davanti e la parte centrale. Rimane un pochino, diciamo, staccata dalla guarnizione del vetro di davanti. Hai visto com'era nell'appunto? Nell'appunto. Ecco, questa rimane rimane ancora più indietro. Vabbè, sarà a livello della plafoniera sicuramente. Più indietro della plafoniera, sarà un palmo più indietro della plafoniera. Vabbè, interessante che vada bene. Sì, perché mi ha detto, prova un po', ho preso la basetta, ho provato a tirare, fare, così muove la macchina, ma lei rimane bella ferma. Ma poi io gli dirò un melone, ti ne ho trovato uno che era il doppio di quello che ti avevo trovato. Sì, vabbè, ma già va bene anche quello, già. Ne avevo uno anch'io, grande, grande, però tu non passa, avevo paura che non passasse nel coso della plafoniera. Invece lui davanti ha abbassato il cielo della macchina. Cappa, cappa. Loro lo sanno come fare, non ci mettono morto. Comunque Pierpaolo, il buco andava bene. Vieni. Ho detto, il buco del rondellone andava bene, passava senza allargare. Passava? Cappa. E meglio così, ma me l'ho allargato. L'aveva fatta apposta. E beh, sì, cosa mi sei a ubrido? Io non ho già... Di usi. Un bel lavoro. Quindi ha piantato già tutto, l'antenna, tutto quanto. Tutto. Mi ha chiesto se avevo amplificatore, cosa, gli ho detto che me ne dovevano dare uno, gli ho detto che l'ho staccato dalla macchina. E mi ha detto, me lo porti così vediamo di cosa, e tu vabbè, non adesso, magari più avanti vediamo un po'. E lui te lo nasconde, ti mette una, come ce l'avevo io prima. Ti metti una lucetta rossa con un pulsantino nascosto, tu muovi il pulsantino, se c'è la luce rossa, sai che ce ne viene attaccata, te lo nascondo. E cappa. No, per il lineare mi ha già fatto dei collegamenti nel cruscotto. Ah, nel cruscotto? Sì, nel portoggetti, come si chiama. Ah, lì lo metto. E cappa. Tanto il lineare è piccolo, il 747 ci sta. Ma il lineare ha bisogno di aria, non deve scaldare troppo. Ma lo metto dove ce l'hai tu, Migia? Ho capito sotto lo stereo, mi dico. No, assolutamente. No, lui mi stava parlando dell'amplificatore per la radio. Beh, perché non le hai dato proprio le piazzate direttamente, ma non c'è cassa. Sì, infatti, no, io lo voglio fare se lo fa con calma già, perché magari poi si prendeva fretta perché mi deve dare la macchina dopo domani e magari si muore a correre. Se glielo do che se la tenga la macchina, me lo fa bene, perché io ho visto il lavoro che mi ha fatto nel baracchino, ho aperto anche il cofano davanti e ti dico che poi te lo faccio vedere, dai, non ti dico niente adesso. Non lo posso immaginare, anche io con quello tutto fascettato, l'ho fatto bene, non è, l'ho fatto io, sono un principiante, ma gli attacchi li ho tutti fascettati, fatti bene. Gli ho chiesto quant'era il tutto, no? Per sia di lavoro l'antenna che autoradio, e lui mi ha detto se mettiamo in conto anche il coso, aiutami a dire, l'amplificatore. Questo lo voleva mettere tutto in conto. Perché ha detto già che ce l'aveva in mano, faceva tutto. Sai quanto vuole per fare, cioè i due cosi li ha già fatti, quei due lavori. Per fare anche il terzo, fai un prezzo. Non lo so, 150 euro. Tieni 100 in tasca e ne spedi 50. È stato onesto, là. Cappa, glielo dati già da stasera, figura, non li voleva. No, ma me prendi questo prima che me li spenda. A me mi ha preso 30 euro per cambiare con le lampadine. Cappa, no, me l'ha detto se li contento. Ho detto, ancora non l'ho sentito. Beh, a cambiare lampadina e più quella del faro di davanti. Comunque l'importante è che sia tutto a posto. Adesso è a posto, dice che ha cambiato anche una lampadina dove c'è il coso dell'aria condizionata. Sì, è meglio. No, adesso è tutto bello illuminato. E positivo già. Già c'è un'altra cosa quando hai la strumentazione che funziona, cioè, vedi quello che ti deve dare la strumentazione. E poi anche l'estetica, io sono un pignolo, passa una cazzata, mi gira già le scarpe. È positivo. Un secondo di bianco arrivo subito. Meglio. Avanti piedino. Bombolo. Bombolino con bombolino. E riprende il tuo piedino. Persone che usano la macchina come quando stanno entrando nel bagno che usano la Marco, mio cognato era uno che viaggiava, faceva l'apportatore a Cagliari perché lavorava alla regione. E quindi la macchina la usava, non è che non la usava, ha usato sia la punta per fare questo lavoro, sia l'opera, con l'opera ha fatto 350.000 km, non gli ha mai fatto niente. La punta gli ha dovuto fare la frizione, gli ha dovuto mettere la marmitta nuova, gli ha dovuto fare la pompa, insomma un sacco di problemi gli ha dato. Eppure per le macchine le ha usate tutte e due lui, non è che la usava un altro, la usava sempre lui. E mi ha detto già quando l'ho versata l'opera, aveva 350.000 km, camminava come il primo giorno che l'ho comprata, perché lui l'ha presa nuova e l'ha versata nuova come l'ha presa, perché non c'era un graffio per la macchina, figurati se la trattava male. Poi lui è pignolo, non è persona che tratta male le macchine, adesso c'è fuori strada, se lo vedi è tutto quello gigillato, tirato. Può essere pignolo, ma può essere anche che la mano non sia tanto buona, le volte uno sembra che la stia trattando bene, ma non la sta trattando bene. Io riconosco uno che aveva pezzi identici alla tua, ma poi per tua quanti anni già sente, mi pare. Lei c'ha 5 anni, ma io ho già 20 anni, chissà macchina, se la vedi, da subito. La mia c'ha 7 anni, sì, è del 2002. E lì c'è la cinque anni, ma pare che non ha già 20 anni. Tutta scangherata, hanno un po' le moto, intende che sono rumori cinque. Pare un coso, pare un... che invece mai gatta le carriere dentro il motore. E già sono 5 anni. Dipende sempre, se... poi dipende, se tu, se c'è una prima cosa, lo porti allora subito a vedere. Vedi tu che le tre cose là, cinque e la santa così a tutti i tipi, capito? Dipende anche sempre da chi c'ha. Si è trascurata, quello sì. No, io tagliati li ho fatti tutti. Se non lo facevo in officina, glielo facevo al rifornitore, ma li facevo. No, non ho mai trascurato. Facevo una volta al rifornitore per la verità e una volta in officina. Perché tutte le volte a spendere 350-400 euro di tagliando non era il massimo. Cioè, se tu prendi il presidio, hai appunto già 12 anni. No, non c'è niente, non c'è. Se prendi appunto di tagliere che c'ha 5 anni, si vuole abbattere un popolo. Ma lui l'ha presa seconda mano? No, lui l'ha presa nuova, l'ha presa. Ma fa schifo, a parte che consuma bruciaolio, consuma acqua, cazzo, è tutta sgangherata, è spompata. E c'ha 5 anni, c'ha, perché la macchina la tratta da schifo. No, io sono pignolo anche, io ogni volta che vado al rifornitore, per dire anche oggi ho controllato il liquido del radiatore, ci voleva, e gliel'hanno messo, perché da quando c'ho l'impianto a gas mi sta consumando il liquido del radiatore, perché anche l'impianto a gas funziona col liquido del radiatore della macchina. Non so, io lo avevo controllo almeno una volta al mese, l'acqua lo controllo 10 giorni, e tutte le cose che ci sono a fare le faccio, la macchina deve durare da me, io la tratto bene, tu sai che io difficilmente corro o faccio, e sempre chi la usa la macchina già non vedrà niente, io ho avuto il menù. C'era quasi 30 anni e sta sempre rattoppando, una volta siamo andati e andiamo sempre fuori, lontano, e cosa a fare i picnic, o se no come andavamo, Antonio, col mio amico ce l'ha, perché ci ha preso a casa e si deve pagare il mutuo, quindi la macchina non se ne può cambiare, e c'è ancora quella lì. Ma io vedo che va da tutte le parti. Siamo 1.19, bianca era. Andava bene, cioè, no, non ha mai dato fastidi da quando ce l'abbiamo avuto. Dopo una stronza ce la doveva distruggere, ma va in ora amara. Bianco ce l'ha anche quel mio amico, ce l'ha Bianco. Una volta eravamo in strada, mi è scesa la marmitta, non si è scomposto, ma è andato sotto la macchina, ha preso un pezzo di ferro, l'ha riata, e via, torna a lei. No, c'era, c'aveva quello, c'aveva, che si dice, c'aveva un affare, una rotella, cioè, tiravi quelli che ti faceva, quando camminavi ti faceva il massaggio, poi tiravi dall'altra parte e ti... Ma io la settimana scorsa sono andato in quelle, in quelle lotto lavaggio che c'è appena prima di Grassi. Sono entrato lì, ci sono gottimenti sotto la benzinina, lì si è al riparo, aspira polvere, c'è anche l'aria compressa, c'è di tutto. Per un paio di gettoni già si può anche fare. Si è andato da Sam. Ma non so come si chiama, lo conosco perché mi ha portato un amico, rimani un pochino prima di Grassi via Preda Nieta, giri dove c'è la Mercedes e fai tutto quello stradone. Giuse, ma io per pulire la vetro, io ho bisogno di andare da questa parte qua, io c'ho compressore, c'ho la spirapolle e poi c'ho anche il coso a vapore per pulire la vapore, mi lo sai. Papà, lo so, tu ce l'hai il posto, Pierpa. Io qui, è già un problema scendere dalla macchina, figurati se vuoi tenere gli sportelli aperti per aspirartela, così ti brancia di a te allo sportello e quanto c'è. No, l'ho fatta anche l'altra volta, vapore, ho fatto sì, esci di puliti candidi e sterilizzati a burro, c'ho la macchina a vapore. Quella è una cosa, quella è una bella cosa, è una cosa bella da avere, perché se ti li fa così puliti, se dici guarda, deve essere una meraviglia. Una meraviglia. E a voi è andata per quello, è una pistola armata di 100 di vapore a 120 gradi, trincava mezzo una chiesa, mi stava dietro, bruciando tutti i suoi microbi di gira istante. Molto costa una macchinetta così. No, costa molto, 70-80 euro a due. Perché un pensiero una volta l'avevo provata, però non funzionava nell'autolavaggio che c'è di fronte a cosa, a Città Mercato. C'erano quelle macchinette, però non funzionavano. Vedere un pochino, perché è bello avere i sedili belli sterilizzati e deve essere il massimo in macchina. Ma lo sai, il profumo che ti lascia dopo che li hai puliti, sembra che sia entrato dentro un coso di uomo. Ci credo, Pierpa, ci credo. E io me l'avrei fatto giù in stabilimento, qui. Chiuso il cancello e tutto quanto, hai voglia, e lui non ti rompe le scatole a nessuno. È una, come una pistola, mia, come una pistola, ci metti l'acqua dentro, attacca la corrente, e se vuoi farlo voi non c'è problema. Magari lo facciamo assieme, Pierpa, e vedere come funziona, perché secondo me me la prendo. La prendo. Quando vuoi, non ce ne sono problemi, ho fatto anche, hai visto quelle poverine, anche quelle io faccio così perché sono in panno. Sì, infatti l'ho visto, quelle lì sono in macchina qua, sono nuovissime. No, adesso sono di nuovo sporchi, ne avevo fatti che erano usciti, belli puliti, adesso sono di nuovo sporchi. Ma dimmi una cosa, ma fa anche il cielo della macchina quella macchina lì? Tutto fa, tutto, il cielo, tutto. Cavolo, micidiale. Accetto vapore, vetri, tutto quanto, tappeti, biscotto, tutto. Bella, bella, bella. Allora me la fai vedere e vediamo, vediamo un po', dai. Certamente. Cava. Guarda, è troppo bella, ma perlomeno a me piace, non sono fanatico, attenzione. Della macchina. Però io dico, una passata con quella storia lì, per un anno sei a posto, diciamo che dipende, noi ci sediamo sempre con la roba di lavoro in macchina e quindi appoggiamo soprattutto le braccia che prendiamo le bombole servono di sopportino e quindi quei cosi delle bombole si sporcano sempre perennemente, quindi io e noi lo facciamo un po' di più, ma giusto perché ci sediamo con la roba da lavoro. fatto anche per portarsi, però ben vengano queste cose qui che ti danno una mano per tenerla pulita e per disinfettarla pure. Adesso io venerdì come la ritiro, anche se dentro è pulita, mi avvicino in quel coso lì di Predanieta a vedere se li hanno messi in funzione e un coso glielo do ai sedili, perché io so di me, Pierpa, di chi ce l'aveva e la mano sul fuoco io non ce la metto. Adesso provo a passarci, niente di strano che se sono libero venerdì mattina provo stesso venerdì mattina a passarci, se no dovrò comprare, ci sarà qualche spray per disinfettarli. Oramare, sai, si puzzinoso. No, non è cosa di puzzinoso, è cosa che la macchina è bene che sia disinfettata. Sentito. Avanti! Ho detto che se lo vuoi fare glielo facciamo con quella! Ah, tu sei Pierpa! Ah, lo sai che? Perché l'avevo riconosciuto adesso? Io ti sono rimasto un po' curioso, avanti! Come te l'ho mai riconosciuto? Ti giuro, è stato un passaggio, ero io sovrappensiero adesso, in questo momento, ho sentito parlare e ho detto, avanti, e mi mica ero, cioè, in cuor mio, boia, caffè, o so guio, caffè, che so che ho niente per papà. Oh, boh, a mio caso si è stato qualche altro, sono Gianni. Puzzinoso, Anto, e che anche nella mia ogni tanto una sterilizzata gliela davo perché gli passano bene alla macchina. Poi avendo bambini in macchina non c'è cosa migliore che della pulizia. Sogno d'oro. Ciao, ciao. Cosce, cosce.